coperta dalla polvere. Sono rimasti solo in due, lontani 4 miglia, sulla strada principale. Ognuno pensa, sì lo so, sono rimasto solo io. Sono solo. Bianca è già nel cielo, è già nel cielo.